Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Le 8 e 20 minuti. Ed eccoci qua. Alessandro, come stai? Oscar ti saluta, salutiamo i nostri ascoltatori. Questo è 21 gennaio. Ebbene, sì. Attenti al santo del giorno. Perché il santo del giorno è un santo di fronte al quale, per evitare di farsi dire che siamo gufi anti-italiani, bisogna tutti alzarsi in piedi, cari ascoltatori, perché oggi è il santo della moglie del Presidente del Consiglio. Oggi è Sant'Agnese, Agnese, che è patrona delle vergini, delle fidanzate. Questo dovrebbe far ridere, perché noi associamo le vergini alle fidanzate, una tradizione cristiana. Questo fa ridere. Vabbè, al massimo. No, ma è, io fa ridere non perché non sia vero, perché è frutto del pregiudizio maschilista, no, che impregna. Anche perché non è vero. Cioè, patrona delle vergini, delle fidanzate e dei giardinieri. Dei giardinieri. Però Chancy Gardner, capisci? Chancy giardiniere, il marito, c'è un certo riferimento alla vicenda del potere. E comunque auguri anche a chi si chiama Publio Fruttosio. Fruttosio. San Fruttosio, no. Ti assicuro. Saccarosio non c'è, ma San Fruttosio c'è. E auguri a chi si chiama Augurio, perché oggi è anche Sant'Augurio. Ed Eulogio, il Sant'Eulogio e Patroclo, Epifanio e Megingrado. Però Eulogio. Mi piace perché l'eulogio, il buon discorso, in definitiva è il vero santo del voto al Senato. Augurio è bellissimo, secondo me. Augurio è bellissimo. Però guarda, chiamare un figlio augurio, secondo me è ben augurante, per così dire. Eh beh, abbastanza. Invece Patroclo, ti ricordi? Come... No, però Patroclo! Il santo è Eulogio, perché è il giorno in cui Verdini timbra col suo nome i suoi 17 voti la riforma fondamentale del governo qui. Renzi. È arrivato, ragazzi, qui Oscar urlando Verdini. Dal credito cooperativo toscano di Verdini alla banca Etruria della Boschi, un luminoso, radioso futuro per il riformismo italiano. Cioè, ma perché tu, allora, perché Verdini in questo momento politicamente è la più importante stampella, diciamo, come numeri per il governo. La maggioranza non avrebbe in Senato avuto i voti per far passare la seconda lettura della riforma della costituzione. Sai cosa dice Verdini oggi al Corriere della Sera? Fabrizio Roncone dice: io importante, ma no, sono un politico di passaggio. Comunque ha preso anche una grillina, anche una dal Movimento 5 Stelle, è passata dal Movimento 5 Stelle a Verdini. Vedremo adesso nel rimpasto di governo, che non a caso seguirà entro poche ore. Rimpasto di governo. Le ha chiamato rimpasto di governo lo stesso Presidente del Consiglio. Ieri, rispondendo a una domanda, ha detto: non so se venerdì, ma non sarà le calende greche. Cioè, adesso bisogna andare all'incasso. Traduciamo so che per però chi ascolta. Rimpasto è un termine che non gli piaceva, perché è nefasto. No? Rimpasto ricorda le vecchie repubbliche. Beh, infatti, lo ricorda perché, come si vede, ridistribuzione di compravendite si tratta per passare in voti decisivi. Dal punto di vista politico, non sto ipotizzando d'azione di denaro, certo. Ma dal punto di vista politico è così. Del resto, proprio ieri Berlusconi, a un fondamentale convegno politico, la presentazione del libro di Mirta Merlin, ha detto: finalmente gli italiani non mi meritano. Sì, non mi meritano. Che poi ha detto questa cosa che non so se viene riportata male, ma sempre: non mi hanno dato il 51%, sarebbe il 50% più 1. Io che avevo 6 in matematica, che cosa? 51% è un'altra cosa rispetto al 50%. Comunque, mettiamoci finalmente, possiamo metterci, non so se dopo aver detto queste parole. Che dice Alessandro? Ci abbiamo messo una pietra sopra o per i prossimi 10 anni ancora ci proverà? Perché io direi a questo punto, l'hai capita. Io dico, finalmente, non è che solo non ci proverà ovviamente a diventare Presidente del Consiglio, ma una cosa secondo me è, e può essere vista con piacere o con dispiacere, è ancora vera quando dice Berlusconi, cioè che se scende in campo lui, la destra unita può avere può portare più, cioè più è Verdini voti al cubo. Berlusconi, ti rendi conto? È Verdini al cubo. Finché scende in campo è la garanzia per Renzi che vince, che non ha un avversario a destra per governare oramai. Mm. Cioè, tu capisci come tutta questa strategia. Beh, ma la destra è sempre stata per vent'anni è stata soprattutto disegnato la strategia della destra italiana. Ecco, quindi diciamo c'è una parte esplicita Verdini, sì, c'è una parte implicita, quella di Berlusconi, che è quella di lasciare Renzi solo in campo. E tant'è che l'unica squadra vera nei sondaggi di avversari è quella 5 Stelle. Ma mica è un caso. Cioè, tu pensi che sia un caso che Berlusconi si è comportato così? Niente è casuale con Berlusconi. Va bene. Comunque ci fanno sapere che Sant'Eulogio è stato il primo vescovo di Ivrea. Cioè Ivrea, Francesco, verissimo, Ivrea. Verissimo, verissimo. Allora, però noi parleremo ancora tra un attimo di questa diatriba di calcio, che non è solo calcio, no? Il frocio, il finocchio. Anzi, chiamateci 800 24 00 24, perché adesso è arrivata un'onda di riflusso a dire: Mancini ha stancato, Mancini ora la smetta, Mancini... E poi Mancini è gay, tanto che Mancini ha dovuto rispondere a Repubblica dicendo: no, a me piacciono le donne, forse si è capito male nella concitazione, ho fatto una dichiarazione che era interpretata male. Detto tutto questo, poi a me sono arrivati sms del tipo: ah, allora stai con la tesi che deve vincere la Juventus il campionato, non capisco, cioè, cosa secondo c'è. Voi, non capisco io cosa Alessandro c'è. Milan, esatto. Io pure e torinista, Oscar Giannino torinista, possiamo mai fare qualsivoglia cosa però, per agevolare però, la Juventus? Sta di fatto che le reazioni rivelano e confermano secondo me che c'è un problema culturale diffuso, cioè questa idea che nel mondo a bordo campo si può dire frocio, lesbica, zoccola, troia e tutto, e tutto il quanto il peggio, e in fondo bisogna capirli questi ragazzi, ecco, dall'idea di un mondo a parte, e purtroppo c'è un consenso istituzionale secondo me ancora troppo ampio rispetto a questa specie di area libera, che è l'area libera che esprime poi il sistema vecchio in Italia. Sì, questa è la mia idea di fondo. Ne parleremo con Demetrio Albertini, se volete chiamarci all'800 24 00 24, soprattutto da Napoli, dai, chiamateci, perché Napoli è la piazza dove c'è stato questo episodio, e che ora adesso i napoletani dicono: ma è un complotto di qui, ci vogliono far perdere il campionato. Peraltro, attenzione, perché Sarri pare che rischi solo 2 giornate di Coppa Italia, per esempio. Giornate, sì, ma sai in base a quale teoria? In base alla teoria per cui Mancini, non essendo omosessuale, non è una discriminazione. Sì, cioè, avesse detto frocio a un omosessuale, era un conto. Essendo Mancini eterosessuale, non è una discriminazione. Questa potrebbe essere la spiegazione per dargli solo 2 giornate, un po' deboluccia. Capisci come cosa? No? Sì. Capisci. Però base. Oscar, io qua mi, cioè, insomma, alzo un po' le mani. Poi, alzo le mani, perché è vero, lavoro a Radio 24, ma insomma non è che tutti possono, credo, avere una competenza finanziaria economica, parlare di banche, di borse così. Cioè, anch'io ho capito che il prezzo del petrolio cade, che la Cina è in crisi, che insomma i consumi rallentano, che l'economia non tira, che le banche crollano, che ci sono i crediti deteriorati delle banche. Però le domande che si pongono gli italiani sono: ah, i nostri soldi sono sicuri? Renzi dice di sì, oggi intervistato dal nostro direttore sul Sole 24 Ore. Cioè, le banche sono solide. E B, che sta succedendo? Cioè, voglio dire, è un attacco speculativo. Ma Renzi, veramente, alla domanda del direttore del Sole 24 dice: beh, ovviamente sì, ed è come dire: ma perché me lo chiede a me, scusi? Cioè, in realtà un governo su questi argomenti ha un conflitto di interesse. Da una parte, se dice agli italiani insomma qualche problema c'è, viene accusato di non avere tenuta istituzionale. Quello ovviamente vuol dire, insomma, preferirei, ecco, che a rispondere alla solidarietà delle banche non fosse il governo, come corretto, perché non deve essere il governo. Il problema è che, diciamo, le banche italiane hanno dei problemi. Io non sono in linea con i grandi gruppi editoriali e direttori che ritengono un dovere nazionale dire che è tutto in regola, che non sapevamo che c'era il bail-in, che doveva essere non retroattivo, che è una stronzata tecnica, mi dispiace, la leggo anche sul Sole, però non sono d'accordo. E detto tutto questo, si è creata questa atmosfera per cui bisogna accusare speculatori stranieri, mani di grande attacco al sistema bancario. La Merkel. No, il sistema bancario italiano ha una debolezza che deriva dal fatto che i regolatori hanno costituito per troppi anni un credito mal gestito. Altrimenti la montagna dei crediti deteriorati, 200 miliardi che diventano 350 più gli incagli, che è la più alta percentuale sul totale dei crediti in tutti i paesi dell'Eurozona, non ce l'avremmo. Altrimenti non avremmo MPS, che era la terza banca italiana da 4 anni in crisi conclamata, che dopo 4 aumenti di capitale ha ancora 120 miliardi di crediti, di cui un terzo deteriorati. Il regolatore, secondo voi, ha la mano sulla coscienza a potersi dire che ha fatto tutto quello che doveva in questi 4 anni? La mia risposta è no. Io sono minoritario. Apprezzo però che il Presidente avanti. Del Consiglio oggi annunci a sole 24 ore che un intervento per sgravare con procedura di mercato l'accesso ai crediti deteriorati delle banche è prossimo. Si poteva fare prima, come dice Renzi in questo, perché Renzi ha ereditato, è vero, una situazione incancrenita dal fatto di credere di poter dire abbiamo un sistema solido e non c'è niente da rischiare. Questa valutazione è stata sbagliata da parte dei governi precedenti e anche da Banca d'Italia. Questa è la mia opinione. Gli italiani, sì, siate sicuri, ma imparate che dovete mettere i soldi nelle banche di cui dovete imparare a vedere i numeri più solidi. Non è vero che sono tutte uguali e che non rischiate. Non è vero, ecco. Questa la lettura. Sai che c'è invece una battuta che circola, perché la regina Elisabetta, che festeggia i 90 anni, ha detto voleva le contrade del Palio di Siena, e a Siena gli hanno detto ma vieni tu se vuoi vedere il Palio di Siena. E allora su Twitter cominciano a dire ma perché non si prende il Monte Paschi se vuole qualcosa di Siena la regina Elisabetta? Beh sì, perché ormai è diventato così leggero che glielo impacchettiamo e glielo diamo. È una battuta amara però, amara, perché certo. Sai, non è che adesso dobbiamo per solidarietà nazionale dire che Etruria non è un problema, che il papà della Boschi non è un problema, che Banca Marche, ex democristiani, non è un problema, che centinaia di piccole banche cooperative dove ex politici trombati ed ex presidenti di Camera di Commercio e associatori di imprenditori non sono un problema, perché questa maniera è essere conniventi con il credito mal gestito italiano. Questa è la mia opinione. Tra l'altro, Oscar, di politica, ieri c'è stato anche il sì del Senato alla riforma costituzionale. Ormai manca un solo sì alla Camera, i 4 passaggi poi sono stati fatti, e poi ci sarà questo referendum. Però la Camera, i numeri sono scontati. Ci sono, è chiaro. Quindi mentre tutti il guardano, Senato è stato decisivo. Tutti guardano al referendum. Ancora sul Sole 24 ore, Renzi lega il suo destino politico al referendum. Se perdo questo referendum, vado a casa. Ieri l'ha detto proprio anche al Senato, Ho personalmente affermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, davanti alle senatrici e ai senatori, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. Allora, si può dire quello che si vuole. Per me è una mossa certamente coraggiosa. Cioè dice, se perdo il referendum, io, la mia carriera politica è finita. Certo. Ho speso tutto, è stata la riforma sulla quale... questo governo si è impegnato di più, l'ho voluta fare con tutte le critiche, i comitati che sono nati. Questo è tutto innegabile. Lui in questo. Cioè, lì non capisco perché si critichi a dire ma perché non è un referendum legato al destino politico di una persona. Invece, lui è la parte più alta degli interventi che ha posto in essere in questo momento. Ha una logica, e come? Il Presidente del Consiglio, un governo deve cambiare delle cose. Se cambia o vuole cambiare delle cose e gli italiani lo bocciano. Faremo una legge finanziaria a Bagnarola per questo, però va bene, insomma, è giusto che sia così. Bagnarola sarà una Bagnarola. È evidente che la vera spiegazione di questi attacchi all'Europa improvvisi sono per preavvisare che la legge finanziaria prossima, che esce poche settimane prima del referendum, come ovvio la vedo difficile che sia una cosa per contrarre il deficit, ecco, questo. Ma secondo te, cioè, se uno fa una finanziaria pochi giorni prima del referendum, magari chiedendo tasse, aumentando le tasse eccetera, poi si presenta gli italiani al voto, tagliando la spesa, questa cosa del tagliare la spesa è sparita, capisci? Ho capito, quindi abbiamo dato i 500 euro ai 18enni, il prossimo anno lo daremo ai 15enni, ai 90enni. A proposito, io vorrei sapere questa storia dei 18enni, dei 500 euro per la cultura. 290 milioni sono. Perché non ci chiama qualcuno? Ma sono arrivate le tessere? Come funziona? Non sono ancora arrivate, ma arriveranno. Vorrei sapere la prima tessera. Ti devo ricordare per il mestiere che facciamo che queste tessere arrivano 2 settimane prima del voto elezioni. Amministrativo. Cioè, non mi fare sorridere, dai. Se no finisce come il 7:30 precompilato che apprendiamo ieri, non ci saranno le spese farmaceutiche. 7:30 perché è colpa dei farmacisti. Il 7:30 precomplicato. Ma dai, è colpa dei farmacisti. Perché la Orlandi ha detto, del resto la legge non era molto chiara da capire. L'avete scritta voi, dottoressa Orlandi. Dai, sentiamo qualche ascoltatore. Alessandro ci chiama da Firenze. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno a voi. Eccoci. Allora, io sono toscano doc, interista sfegatato, anti-napoletano. Quindi, premesso questo, Sarri ha sbagliato sempre i soliti discorsi, però in Toscana, noi siamo una regione un po' particolare, la parola finocchio, buco, cioè... si dice delle volte anche o finocchiaccio, anche per un po' sdrammatizzare, certo, la cosa, cioè però, è un po' amichevole. Ma ora, capisci, detto, Alessandro, che se lei incontra al bar un amico e gli dice o finocchiaccio, io posso capire che è tutto, no, con una pacca sulla spalla. Era un po' diversa però il tono di Sarri, no? Tre giorni non si parla d'altro, cioè, facciamola finita. Ha chiesto scusa, prende la squalifica, chiuso. Qui siamo arrivati all'assurdo che se si bestemmia in campo è meno grave che se si dice finocchio, cioè finocchio ora non si, è una parola che non si può usare, ti sparano, ti danno una galera a vita, cioè, no, basta, facciamola finita, basta. Cioè, ha sbagliato, paga. E ma infatti oggi pagherà, vedremo quanto sarà la squalifica. Vabbè, insomma, Alessandro è della linea minimizziamo, cioè nel senso, dai, gli ha dato. No, io continuo a non capire. Però i toscani sono fantastici. Perché, con rispetto per l'ironia di tutti, questa storia finocchiaccio, ripeto, allora è come se dice, ma che c'entra? Io lo considero un complimento ironico, direi, la nonna Zoccola. Allora, siccome non passerebbe questa linea, come ovvio, sì, non capisco perché invece, declinandola in maniera ironica, ma insomma è ovvio che è beffardamente ingiuriosa nelle intenzioni di chi lo usa, per quello che riguarda invece i, tra virgolette, le questioni di preferenza sul maschili, invece no, questo questo è uno scherzo. Ma tra l'altro guarda che oggi Roberto Mancini fa un'intervista a Repubblica e dice: mi avesse detto figlio di o pezzo di, avrei sorvolato, non me ne fregava nulla, ma così Sarri ha offeso qua tanti poveri ragazzi che nel mondo vengono presi in giro e poi ogni tanto qualcuno si suicida, cioè ne fa un discorso che è proprio esula dal mondo del calcio, cioè a questo punto il calcio non c'entra più, quasi più nulla, per far capire che dietro c'è una lunga cultura che, non perché è politicamente scorretto, a me del politicamente corretto frega niente, sì, a me quello che interessa è capire perché nella mentalità maschile, perché quindi come vedete è una questione culturale, non di politicamente corretto, questa storia deve rimanere come una cosa che ha piena liceità. Certo, hanno fatto notare anche che qualche anno fa Mancini, quando era allenatore, sorvolò dicendo: ma sono cose che succedono in campo, quando Vieira, giocatore di colore, e Mihajlovic, allora giocatore e oggi allenatore del Milan, si dissero in campo, in pratica zingaro, negro di M, eccetera. E Mancini disse: vabbè, ma sono cose. E allora tutti a dire: ecco, vedete, Mancini adesso fa il puro, mentre qualche anno fa sorvolava. Vuol dire che però Mancini, avendo quella volta sbagliato, forse ha capito. Forse andando in Inghilterra ha aperto un po' la propria mentalità a un mondo del calcio vissuto in modo diverso. Ha la sensibilità che lì picchia duramente, perché lì hanno dovuto estirpare una violenza negli stadi e lo hanno fatto imponendo la correttezza e obbligando le società a farne un obiettivo fondamentale della gestione dei loro impianti. E passa anche per questo, certo, però. Comunque ne parliamo ancora con voi all'800240024 con Demetrio Albertini. Tra poco state con... State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:41 minuti. Senti cosa facciamo sentire i nostri ascoltatori. È dal campionario del mondo del calcio. È un elogio, appunto. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale. Io se avessi un giocatore omosessuale, prima di tutto non lo prenderei, ma supposto che mi sbaglio e lo prendo, fa prima di andare che avvenire. Secondo voi c'è un calciatore famoso che pagano un altro giocatore per fare dei festini omosex con loro? Ma secondo voi è una cosa attendibile? Però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle. Conosco l'ambiente del calcio e nell'ambiente del calcio non può vivere uno che è gay. Sono Cassano, Moggi, Lippi. Insomma, poi c'era anche l'allenatore Capuano, quello che, dov'è che è? All'Arezzo. Sempre l'Arezzo. È una capitale del gusto della buona amministrazione. No, vabbè, non c'entra niente. Ma quello c'entra niente, che pensi? Però, Gelli, il papà della Boschi. Insomma, questo si è sentito nel mondo del calcio negli ultimi anni, è un campionario. Ecco, allora a questo punto la domanda è legittimo che chi come me pensa che ci sia un problema culturale continui a pensarlo, e per questo, cari ascoltatori, non perché siamo così matti da non capire che le banche, la politica, quello che avviene nel mondo ha più importanza alle parole di Sarri, però che ci sia un grande problema che nel calcio ogni tanto esce fuori in maniera così, ma che secondo me resta in tutta la mentalità maschile delle classi dirigenti di questo paese. È vero o non è vero? Sentendo queste dichiarazioni io sento l'obbligo tutte le volte che ci sono casi come questi di dire dobbiamo riparlarne, perché altrimenti siamo sempre lì. Però prima di salutare perché l'ospite, voi pensate davvero che sia come dice Moggi, non ci sono omosessuali nel mondo del calcio? No, chi ma la non solo non lo comprerei mai, ma un mondo, un gay non può stare nel mondo del calcio, conoscendo il mondo del calcio. Oddio, forse un pizzico di ragione su questo, appunto, conoscendo il mondo del calcio so che avrebbe qualche difficoltà. Però ci chiamano anche tanti ascoltatori. Roberto da Cesena, che ci vuole dire Roberto? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Salve. Senti, io era questo il mio pensiero. Mancini ha denunciato un qualcosa che non gli stava bene, cioè un'offesa. Adesso sarebbe giusto che queste denunce, c'è stato un inizio, ma ci sia poi un proseguo, perché se non c'è un proseguo di queste denunce di offese, a questo punto Mancini ha un secondo scopo e dà ragione a chi dice vabbè, ma quando poi lo fa il suo amico non fa niente. Quindi si è rivisto, oppure ha un secondo obiettivo, oppure vuole destabilizzare l'ambiente napoletano? Cioè questo è il dubbio. Ha un po' l'accento napoletano lei, Roberto da Cesena. Cesena, sono un napoletano e tifoso del Napoli. Grazie comunque. Andrea invece è proprio però da Napoli. Se ci sono le sanzioni, questa è la cosa, oppure quale deve essere il seguito, non so. Andrea, andare in procura e denunciarlo per omofobia, non lo so. Andrea da Napoli, che dice lei? Buongiorno, che ha ragione Sarri, il problema è questo, è che Sarri ha detto la verità, quindi già nel mondo del calcio secondo me si ragionava su questo. Che vuol dire ha detto la verità? Che probabilmente Mancini veramente è finocchio, come l'ha chiamato Frocio. Ecco. E quindi Mancini si è sentito un momentino colpito. Oppure c'è la malafede comunque di Mancini, cioè due sono le cose, o lui è veramente frocio. Vabbè, devo dire un limpido argomentale, faccio riflettere con una punta di ironia, Andrea. O è frocio o è malafede, è un'alternativa di quelle che allora, apre volendo in campo. Ribadire Mancini, cioè, lei avrebbe avuto un futuro nel tribunale dell'Inquisizione. Devo dire. Volendo ribadire, Mancini oggi a Repubblica dice, peraltro, se proprio me lo volete chiedere, io sono eterosessuale, e lo ribadisce a Repubblica proprio nel giorno in cui è uscita la notizia che deve dare 40.000 euro alla ex moglie. Ma il dibattito è questo, cioè, non so, chiediamo lumi, no, non so se su questa Demetrio Albertini, dirigente sportivo, ex calciatore, buongiorno Albertini e ben ritrovato. Buongiorno a non tutti. Vogliamo scendere a questo livello, cioè se sia omosessuale o non sia omosessuale, perché, però è paradossale che adesso si è un po' spostato il discorso, l'argomentazione, però slittando così ai miei occhi conferma ulteriormente che c'è un problema culturale che riguarda le istituzioni del calcio, i dirigenti, gli allenatori, si trasmette ai tifosi che a propria volta la pensano così. Non lo so come la pensa Albertini. Io vorrei che non ci fossero presidenti come Tavecchio che fanno le battute che abbiamo sentito al suo esordio e allenatori che dicono: ma cazzo, io posso dire frocio a chi voglio, a un altro mio collega di panchina per polemizzare, lui deve stare muto perché deve capire che nella lotta del campionato tra Napoli, Calero e l'Inter ci sta pure che io dico frocio a rotti. Per me è un mondo Lo so, Albertini, lei che il mondo l'ha vissuto all'interno da calciatore e da dirigente, ci aiuti a fare un po' di lumi su questo. Sinceramente, come ho già ribadito in altre occasioni, non posso condividere queste cose e quindi non posso assolutamente discolpare Sarri di un errore, di un insulto fatto in un momento magari anche, come hanno detto tutti, come ho vissuto anch'io, di pressione. Però non puoi usare quei termini, questo è il mio punto di vista. Poi dopo che sia un problema esclusivamente del calcio, questo non lo so. No, ma io sono convinto di no. Il calcio sta all'interno della nostra società. Infatti, non è che sempre lo isoliamo anche noi, no? Già si isola da solo e poi dopo lo isoliamo anche noi ghettizzando il calcio come identificando su un errore che è riconosciuto. Ma anche su questo Albertini ha ragione, perché ieri Renzo Olivieri, presidente Assocalciatori, ha detto: ma in fondo forse è il paese che su alcune argomentazioni è un po' indietro, non il mondo del calcio. Detto il mondo questo, del calcio è un riflesso della parola di Olivieri, era una maniera per dire vabbè, ma quindi non drammatizziamo. Io invece penso che, siccome il calcio, tra tutti gli sport, già gli sport in generale, ma il calcio è uno dei drive fondamentali della crescita, della decrescita culturale del paese, esatto, del dibattito del paese, proprio per questo lì ha ancora più importanza. Io la penso così. Però anch'io la penso così, perché credo che reputo il calcio uno dei valori sociali più importanti che abbiamo, quindi assolutamente reputo il calcio uno spettacolo, e i protagonisti che sono quelli che scendono in campo, dagli allenatori agli arbitri ai giocatori e anche ai dirigenti, perché hanno un ruolo i dirigenti, assolutamente devono cambiare copione, questo, devono recitare qualcosa di diverso. Però Albertini, lei Mancini lo conosce, l'ha anche affrontato varie volte da calciatore, è uno... Ha avuto anche come allenatore, è uno però che è sempre stato anche pronto, lo diceva anche Boscov, è uno un po' fumantino, no? Che non le mandava a dire ai compagni, agli avversari, eccetera. Perché secondo lei questa volta Mancini, che sarà stato protagonista anche lui di episodi che rimangono sul campo, non ha voluto che rimanesse sul campo questa vicenda? Questo non lo so, che sia fumantino sicuramente, lo era da giocatore, lo è da allenatore. Io dico invece che lui ha avuto anche un trascorso all'estero, e queste cose, queste situazioni vengono affrontate diversamente. Adesso la polemica è esclusivamente sportiva, Inter e Napoli, e alla fine invece questo è un tema da affrontare un po' più complesso, un po' da affrontare diversamente. Avendo fatto secondo me un percorso anche all'estero, sa quanto è evidenziato questo problema e quindi l'attenzione che si ha. Poi dopo, se ci sono altri retropensieri, questo bisognerebbe chiedere a lui e vederlo. Come ho detto, Sarri è un allenatore che stimo, non lo conosco di persona, quindi non posso giudicarlo. Giudico quello che è successo, sì, e sinceramente si può sbagliare, è punibile. È punibile. Ecco, ma punibile come? Sai che oggi c'è la decisione del giudice sportivo, c'è chi dice potrebbe essere con la mano soft, perché essendo Mancini eterosessuale in fondo non l'ha discriminato, ma potrebbe prendere due giornate. Questo potrebbe essere abbastanza incredibile. Sinceramente adesso aspettiamo la procura. Diciamo il mondo del calcio, il mondo dello sport ha la sua giustizia sportiva, quindi una giustizia a parte, e non spetta a me giudicare, o almeno dobbiamo aspettare per giudicare la sentenza, quella che sarà. Non lo so, qui poi dopo la palla passa in mano agli avvocati, mentre noi stiamo facendo, tra virgolette, non un processo, comunque stiamo discutendo della situazione d'immagine pubblica che stiamo dando, come ho detto, all'interno di uno sport così importante come il calcio, sì, in Italia. La sentite Albertini le dichiarazioni? Glielo chiediamo, perché la domanda che si fa sempre ai calciatori, effettivamente i giocatori omosessuali, siccome percentualmente ce ne saranno, però pochissimi hanno manifestamente dichiarato la propria tendenza sessuale. Ma ti credo se la reazione è questa. Ce ne sono? Perché è così difficile ammetterlo? Personalmente non lo so, io non ricordo di aver giocato o almeno di aver avuto compagni che si siano manifestati in questo senso. Non lo so sinceramente, perché c'è anche una libertà di poter scegliere il momento, certo, e quindi anche nella libertà di non dire quello, il suo indirizzo sessuale può essere anche, va anche rispettata questa. No, certo, ma però voglio dire, non si può immaginare che sia senza effetto il fatto che fior di dirigenti, grandissimi club, più volte nella storia abbiano sempre ribadito: qui lo spazio in panchina e negli spogliatoi e sotto la doccia per un omosessuale che altro non c'è. È ovvio che se io a quel punto faccio quella carriera dico ragazzi non lo dirò mai. Ma Oscar Giannino è dell'idea che queste dichiarazioni sono il motivo per cui abbiamo un Tavecchio a capo del calcio. Ma, cioè, vedo una coerenza perché non lo dico per criticare, ma la vedo purtroppo davvero non essendo d'accordo. Lei la vede in questo. Cioè, le dichiarazioni, ripeto, di dirigente della Juventus le abbiamo all'epoca le abbiamo appena rimandate in onda. Non è che la vede questo legame, Albertini? No, sinceramente no, con un legame così diretto no, abbiamo detto fin dall'inizio che è una questione culturale e nella cultura ognuno ha la sua, il suo modo di vivere, il suo modo di stare al mondo come si suol dire e quindi questo non lo vedo come legame dirigenti o massimi dirigenti con quello che succede nel calcio, è questione veramente culturale, la cultura non è che si compra, si vive e quindi poi l'esperienza e poi dopo si fa e si prosegue. Dipende uno da dove arriva e le sue esperienze. Allora intanto la ringraziamo Demetrio Albertini, grazie. Io apprezzo per essere stato... posso dire una cosa, io apprezzo Demetrio Albertini questa misura con cui su questi temi lui ci fa capire che ci vuole tempo, bisogna cambiare gli uomini portatori della cultura. Io lo apprezzo infinitamente, mi auguro un giorno di poterlo applaudire in un'altra veste, però vabbè, chiusa parentesi. Intanto sentiamo Marco, ci chiama da Mantova. Ciao, buongiorno. Eccoci Marco. Buongiorno signori. Volevo dirvi che secondo me il discorso di Berlusconi con Renzi è nato tutto 3 anni fa, quando Renzi è andato su ad Arcore. Sì. E si sono pianificati tutto quello che sarebbe successo nei prossimi 10 anni. Addirittura. 10 anni non lo so, però credo anch'io che abbiano pianificato parecchio di quello che avveniva fino a sto momento. È così. Guarda, io sono pronto a scommetterci, secondo me verrà fuori Non so se un bookmaker però accetterà questa scommessa, un po' difficile da dimostrare. Beh, devo dire che ieri a questa stessa presentazione del libro la domanda, ma dicono che lei fosse convinto, che sia convinto che Renzi è una specie di suo figlioccio che assomiglia, lei non è che ha detto no. Ha detto sì, ne ero convinto fino a poco tempo fa, quindi non nega affatto. Perché poi dopo la non grazia, ma la com'è che si chiama, la candidabilità che gli è stata promessa. La candidabilità, la rottura sul Presidente della Repubblica, insomma tante cose. Però in definitiva non è che Berlusconi dica non è vero, come vi permettete, come no. Ci sta anche Federico da Bergamo per concludere, se è breve, grazie Federico. Buongiorno. Dica. Ma io chiamo, sono allenatore dilettantistico naturalmente, sì? non posso che dire a tutti che chi vive il calcio, anche a livelli minori, se lo vogliamo vedere come fenomeno sociale, sì, italiano, nel calcio se ne dicono di tutti i colori. Vabbè. La domenica ne vengano dette di ogni tipo. Ma quindi questo... che io come allenatore, sì, io come allenatore non posso che dire che nel mio spogliatoio se ci fosse un omosessuale problemi non ne avrei. Ecco. E non è vero che un omosessuale non può fare calcio. Beh, che adesso pensassimo questo, però il problema è se forse nel calcio in Italia, sì, allora perdonate, nelle serie minori dei bambini, ecco perché i genitori si menano tra di loro, oltre che insultarsi, si picchiano in tribuna. Vogliamo fare qualcosa? Manco, vuol dire che manco ci fosse capita un Rolex in palio. Ecco, poi si capito? Si se no fanno come Renzi che dice alla scorta che si picchia per Rolex, dateli tutti a me. Ecco, questo non mi pare una buona soluzione, devo dire la verità. Ci dobbiamo fermare qui, caro Oscar. Benissimo. Ci troviamo domani. Ciao.